chiedersi come mai. Adesso sei qui a pensare, storie con la mente, immagini di ieri, e ritrovi storie, volti amici, ma le carte per terra non l'hanno ancora spazzata. E